era abbastanza in attesa, perché il governo, per bocca del ministro Scajola, si era molto esposto sugli incentivi, aveva parlato di rinnovo degli incentivi già nel 2009, poi aveva quindi quando ancora erano in vigore gli incentivi appunto dello scorso anno, poi ne aveva ripetutamente parlato successivamente anche in quest'anno, poi addirittura nel giorno dell'annuncio era uscita una pagina su un importantissimo quotidiano nazionale che entrava nei dettagli, quindi non penso certamente che avesse inventato delle ipotesi, erano certamente uno scenario che faceva riferimento a una situazione che era stata in discussione. Poi improvvisamente il 9 febbraio il ministro Scajola ha detto che non ci saranno più incentivi. E cosa è accaduto allora, Quagliano? Beh, è accaduto esattamente, non so cosa sia accaduto, però di fatto sulla via di San Sebastian, che era il luogo dove si svolgeva una riunione europea, il ministro Scajola è stato folgorato dalla verità, come Paolo sulla via di Damasco, e ha deciso che incentivi per il 2010 non ci saranno più. Il costruttore italiano si è dichiarato d'accordo, ma gli incentivi non riguardano solo il costruttore italiano, riguardano in primo luogo i consumatori e poi tutti gli altri operatori. Quello che succede di fatto è che le previsioni per il mercato dell'auto che noi avevamo elaborato sulla base di quello che era lecito ritenere nel dicembre del 2009, e cioè che venissero rinnovati gli incentivi sostanzialmente con una formula analoga a quella dello scorso anno, queste previsioni vanno rifatte e noi ipotizziamo che il mercato subisca un calo in questo anno di almeno il 20% rispetto all'anno precedente.